lo schizzoide comunica poco, ma ha sviluppato antenne molto lunghe. Cioè lui non partecipa nel gruppo, però è quello che osserva di più, non mi sfugge niente. E dà un'intuizione, un'intelligenza, una capacità di comprendere anche i vissuti delle persone che è notevole. Un terapeuta schizzoide, se non è troppo schizzoide ovviamente, ha una capacità di comprendere abbastanza in fretta le dinamiche di una persona. Il problema del terapeuta schizzoide è che poi le dice è troppo in fretta, e non altro non è pronto, e quello non gli serve a nulla. Non c'ha calore, c'ha poco calore.